cioè di cogliere questa possibilità che ci viene data, però dobbiamo pensare che quindi, questa vita non durerà a lungo e può la continuità di questa esistenza può recidersi, si dice sì, così, a qualsiasi momento. Non abbiamo certezza di quanto durerà ancora questa esistenza. Quindi si dovrebbe dopo riflettere al fatto che l'unica cosa che sarà di beneficio al momento della nostra esistenza, quindi sono le nostre azioni che abbiamo compiuto in questa vita, le impronte che abbiamo potuto mettere, quindi le qualità che abbiamo potuto generare e le tendenze, diciamo, di sofferenza che abbiamo potuto ridurre o eliminare. Quindi alla fine si dovrebbe capire che l'unica cosa che è di beneficio al momento della propria morte, che è la nostra pratica spirituale, questa è l'unica cosa che sarà di beneficio. Poi si dovrebbe pensare che guardando quindi eventualmente prendendo in considerazione la continuità di questa vita, si dovrebbe vedere che ci sono due possibilità, o si sperimenta una rinascita nei rami superiori come quella umana, o si prende rinascita un'esperienza di sofferenza come quelli di animali o spiriti famelici, eccetera. Quindi si dovrebbe vedere che solo queste due possibilità esistono e queste rinascite, queste esperienze dipendono dalle qualità delle proprie azioni, delle proprie azioni di corpo, parola e mente durante la vita. Quindi si dovrebbe vedere osservando la nostra mente in generale, no? Questo è l'oggetto di osservazione più importante, la nostra mente, vedendo che anche se prendiamo l'arco di una giornata, pochi sono i momenti nel quale la mente dimora veramente in uno stato virtuoso, cioè essenzialmente è impresa all'attaccamento, all'avversione, all'orgoglio, al dubbio afflitto. Quindi tutte queste cose, la stessa cosa per le attività, automaticamente quando la mente è sotto l'influenza di quell'attitudine mentale, le attività sono fonte di sofferenza futura. E quindi si dovrebbe capire che grande probabilità per sperimentare difficoltà nella prossima esistenza. Quindi avendo preso questo in considerazione, si dovrebbe riflettere su come ci possiamo proteggere, chi ci può proteggere di questa esperienza, e dovrebbe vedere che il Buddha, attraverso il suo insegnamento, e quindi le persone che hanno già generate, sono già entrate sul sentiero, che hanno questo livello di aria, sono in grado di aiutarci e a proteggerci della sofferenza futura. Quindi questo dovrebbe essere preso in considerazione. Poi si dovrebbe capire che quindi alzare la motivazione, vedere che il solo sperimentare una rinascita futura cioè nei stati di benessere, più o meno benessere, non basta, perché non passiamo comunque al di là della sofferenza. Vediamo questa vita è considerata come qualcosa da ricercare, però vediamo che comunque è pervasa di insoddisfazione, problemi, difficoltà, sofferenza, lo stato attuale della mente e del corpo. Anche sia qualcosa di elevato, è comunque pervaso di difficoltà e sofferenza. Quindi dovrebbe capire che questo non basta, e il potenziale che abbiamo è anche di quello di ottenere la liberazione. Quindi dovrebbe ricercare a generare questa motivazione di ottenere il nirvana, o la cessazione completa del dimorare nell'esistenza con gli aggregati contaminati, spinti dal karma e dell'afflizione. Questo quindi è la liberazione. Però si dovrebbe anche alzare di nuovo la propria motivazione e prendere in considerazione tutti gli altri esseri, che sono esattamente nella stessa condizione, i nostri cari, ma anche tutti gli altri esseri, perché tutti questi esseri sono state nel passato molto vicino a noi, sono state proprie madre, padre, eccetera. Quindi esattamente come la madre e il padre di questa vita si sono presi cura di noi e continuano a farlo, tutti gli esseri, quando hanno avuto questa relazione, hanno mostrato questa stessa attitudine ai nostri confronti. Quindi si dovrebbe generare questo sentimento di l'attitudine di avere un grande debito all'incontro degli esseri e di desiderare ripagare questa gentilezza. Questo è molto importante, il desiderio di ripagare, ricambiare questa gentilezza. E quindi la prima cosa è generare un'attitudine di amore all'incontro di tutti gli esseri. C'è l'amore che è nell'entità del pensiero, no? Possono tutti gli esseri avere la felicità, le cause della felicità, questo è l'amore di quale parliamo. Dopodiché dovrebbe generare l'attitudine di compassione, no? Che è quella di desiderare che gli esseri siano liberi della sofferenza, delle cause della sofferenza, e a muovere la mente verso una responsabilità universale, assumere su di sé la responsabilità di aiutare gli esseri a ottenere la felicità piano piano, cioè ridurre la sofferenza nella loro vita quotidiana. Questa dovrebbe essere la nostra motivazione di ogni giornata, di ogni giorno. Però dovremmo anche essere consapevole che non possiamo neanche, ci è anche molto difficile per noi dimorare felice, cioè un'ora, prendiamo 24 ore, ci è difficile di dimorare felice per un'ora, senza interruzione. Non, neanche questo siamo in grado di farlo, per noi, quindi è molto difficile di poterlo fare per gli altri. Questo dovrebbe capire che solo qualcuno che ha percorso questo sentiero completamente, no? Che ha eliminato tutto ciò che deve essere eliminato, che ha attualizzato le qualità, che è diventato quindi effettivamente un protettore degli esseri, questa persona è il Buddha, quindi dovrebbe cercare di generare questa attitudine che viene chiamata la mente di Bodhicitta, no? Il desiderio di assumere, quindi di generare questo desiderio di ottenere lo stato di Buddha per il beneficio degli altri, per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Quindi questa è la mente di Bodhicitta, quindi dovremmo, molto importante di il più possibile durante la giornata cercare di avere questa attitudine. Però la mattina quello che potrebbe essere fatto è fare questa meditazione panoramica che copre i punti principali del sentiero. In quel modo ogni giorno lasciate l'impronta completa di tutto il sentiero. Quindi potete utilizzare anche, ci sono delle piccole preghiere anche per fare questa cosa, comunque è molto importante. Quindi questo essendo un insegnamento Mahayana, quindi entra nel Mahayana, quindi è molto importante di avere questa attitudine. Quindi cerchiamo di generare questa attitudine che possa io ottenere lo stato di Buddha per beneficio di tutti gli esseri senzienti. Se non sappiamo che cos'è lo stato di Buddha, allora possiamo pensare che tramite queste varie pratiche, insegnamenti, istruzione, possiamo fare in modo che la nostra mente diventi una fonte di felicità per noi e per gli altri. Questo va anche bene. Ok, quindi siamo nell'ultima sezione di insegnamenti che riguarda l'essere di motivazione iniziale. Come abbiamo visto, il lama viene diviso in tre sezioni: l'essere di motivazione iniziale, intermedio e di grande motivazione. Rispettivamente hanno come obiettivo la felicità nella vita futura, la liberazione o lo stato di Buddha. E quindi questo è un programma comune. Nel senso che se vogliamo la liberazione non è che dobbiamo aspettare l'insegnamento dell'essere di motivazione intermedio per incominciare a fare qualcosa. Penso che è un sentiero graduale, è impossibile generare la realizzazione dell'essere di motivazione iniziale se non abbiamo generato la realizzazione dell'essere di motivazione, scusate, di motivazione intermedio, se non abbiamo generato la realizzazione dell'essere di motivazione iniziale. È impossibile ottenere la realizzazione dell'essere di grande motivazione, cioè se non abbiamo generato la realizzazione dell'essere di motivazione intermedio che si appoggiano sulla realizzazione dell'essere di motivazione iniziale. Quindi è un sentiero, queste due sezioni dell'insegnamento, no? Si chiamano sentiero comune, perché il sentiero comune, perché sono comune ai tre livelli, a tutti i tre livelli di motivazione. Okay? Quindi queste sono istruzioni da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni. Quindi lo scopo del Dharma quindi è di ridurre la sofferenza, e la sofferenza viene ridotta tramite il soggiogare la mente. Allora, in che modo col karma possiamo soggiogare la mente. Possiamo guardare la cosa in due aspetti, tramite quindi la comprensione che certe azioni derivano esperienze specifiche di sofferenza, generando quindi un certo timore per il risultato di queste azioni. Il corpo e la parola non si vengono messi sotto un certo controllo. Avendo messo il corpo e la parola sotto controllo, piano piano la mente si disimpegna del desiderio di compiere queste azioni. La mente disimpegnandosi di queste motivazioni, quindi la mente si pacifica, quindi c'è meno attaccamento, c'è meno avversione, perché non ci sono più queste azioni spinti, perché c'è salvaguardare le attività che sono spinti, quindi da queste motivazioni. O possiamo direttamente, sono due modi, quindi o controllando le azioni, la mente viene piano piano messa sotto controllo, quindi questa è l'attitudine, è la pratica che viene effettuata. Che viene fatto quindi dagli esseri di motivazione iniziale e dagli esseri di motivazione intermedio. Invece nel Mahayana si cerca direttamente a soggiogare, a controllare la mente per controllare le attività che ne derivano. Quindi abbiamo questi due approcci. Quindi siamo nel karma, questa è l'ultima sezione. Abbiamo visto le caratteristiche generali del karma, quindi ha queste quattro caratteristiche, la certezza, l'aspetto esponenziale, non si sperimentano azioni non compiute e un'azione non viene mai persa. E poi siamo entrati nelle varietà del karma, abbiamo visto che abbiamo tre tipi di karma, abbiamo il karma contaminato virtuoso, abbiamo il karma non virtuoso, e abbiamo anche il karma inamovibile. Abbiamo visto che il karma inamovibile è ciò che riguarda lo sviluppo di concentrazione. Il karma non virtuoso, quindi, è ciò che sicuramente darà a sorgere un'esperienza di infelicità e di sofferenza. E abbiamo visto che anche se le azioni non virtuose, che sono fonte di sofferenza, sono multiplici, possono essere raggruppati, diciamo così. Gruppati in 10 perché sono le 10 principali, le altre essendo delle ramificazioni o derivano da questi 10. E il Buddha quindi ha percepito che controllando, cessando, mettendo una fine al compiere queste 10 azioni, un essere smette di creare le cause della sofferenza futura e automaticamente si impegna nell'opposto, il non uccidere, la non attività sessuale scorretta, il non rubare, eccetera, che sono fonte di felicità futura. Quindi abbiamo visto queste 10 azioni e abbiamo visto che ogni azione, per essere completa, ha vari aspetti, no? Ci sono quattro. Sì, abbiamo 4 o 5 aspetti, dipende come le possiamo suddividere. Abbiamo una base, quindi la base essendo nel caso di uccidere qualcuno, uccidere un'altra persona, abbiamo una base, poi abbiamo un'attitudine, all'interno dell'attitudine ritroviamo una percezione corretta, la motivazione e abbiamo l'afflizione, la motivazione essendo per esempio di uccidere e questo deve essere motivato da una delle tre afflizioni o attaccamento, avversione o ignoranza in generale. E poi abbiamo visto che abbiamo l'azione stessa, l'azione stessa e la conclusione. Poi siamo entrati quindi nella divisione di queste varie azioni e abbiamo guardato insieme anche il come matura il risultato di queste azioni. Abbiamo visto che un'azione completa dà quattro risultati, c'è un risultato di piena maturazione che è il proiettare cinque aggregati, quindi cinque aggregati sono i costituenti fisico-psichici, che costituiscono un essere, quindi abbiamo un aggregato della forma, ok? Questo è il corpo, e dopo abbiamo la mente suddivisa in quattro, abbiamo la sensazione, la discriminazione, i fattori di composizione e le coscienze, ok? Quindi un essere umano ha cinque aggregati che qualificano l'esistenza umana. Un animale, per esempio un cane, avrà cinque aggregati di un cane, avrà un corpo di cane, okay? Avrà una mente che caratterizzano la sua dimensione di cane. Questo è il risultato, si chiama il karma proiettante, quindi l'azione quando è completa proietta questi cinque aggregati. E poi abbiamo un'esperienza. Una tendenza simile alla causa, abbiamo visto che dopo si stabilisce sulla mente un compiacersi, il compiere di nuovo quel tipo di azione, per esempio l'uccidere, c'è un deliziarsi, una gioia nell'uccidere, okay? Per esempio andando a caccia, eccetera, okay? E abbiamo l'esperienza simile alla causa, quindi il risultato dell'uccidere è una vita breve, con malattie, le cure che non sono efficaci, eccetera, eccetera, eccetera. Okay? Abbiamo visto anche che abbiamo il karma ambientale, quindi il karma degli esseri è modellato dal risultato della loro azione, quindi il risultato dell'uccidere crea un ambiente particolare. Okay? Quindi quando gli esseri hanno principalmente in comune questa azione, no? Quell'azione dell'odio e dell'uccidere, allora prendono rinascita in posti dove c'è molta violenza, okay? C'è tutto arido, quindi ambiente difficile. Okay? Quindi ogni azione ha un risultato specifico, un'esperienza, cioè un'esperienza specifica e crea un ambiente specifico. Quindi il nostro ambiente umano, ok? È considerato, qui l'esistenza umana, come dicevo prima, è considerata come un'esperienza fortunata, ok? Però ci sono, è anche miscolata, anche se è un'esperienza, una rinascita superiore, è comunque miscolata anche con risultati negativi. Quindi abbiamo quello che viene chiamato un karma proiettante virtuoso, ok? Il karma che ha proiettato questa rinascita è un'azione virtuosa che abbiamo compiuto nel passato, no? In vite passate. Abbiamo compiuto un'azione e questa azione si è sviluppata, okay? E ha proiettato questi cinque aggregati umani. Okay? E poi tutte le nostre esperienze di felicità non sono azioni che avevano così tanto potere da proiettare, ma vengono a completare l'esperienza umana. Con la sensazione di tutto ciò che è piacevole, quindi questo è un karma completante virtuoso. Okay? Tutte le esperienze piacevoli, le circostanze piacevoli che possiamo ottenere, è dovuto a un karma completante virtuoso. E abbiamo anche delle esperienze spiacevole, delle sofferenze nella nostra vita, delle difficoltà, okay? Delle frustrazioni, vogliamo ottenere qualcosa che non riusciamo a ottenere. Tutto questo è il karma completante non virtuoso. Quindi anche questo era un karma non virtuoso, okay? Che non era abbastanza o non era abbastanza potente per proiettare i cinque aggregati, una volta che il karma viene sperimentato in rinascita sfortunato, rimane ancora un po' di energia, no, da sperimentare e quindi matura nella vita umana come esperienza spiacevole. Questo è il karma completato non virtuoso. Ok, quindi eravamo arrivato qui più o meno. Adesso dobbiamo vedere insieme il peso di un'azione, come un'azione prende peso, come prende forza, e dovremo anche vedere come possiamo purificare o neutralizzare i potenziali non virtuosi dell'azione, fare in modo che non sperimentiamo il risultato eventualmente, e vedremo anche il come sviluppare quello che vengono chiamato gli otto attributi, gli otto attributi particolare di una rinascita fortunata. Quindi la rinascita umana abbiamo visto è fortunata, però possiamo anche renderla ancora più di beneficio, avendo avendo otto attributi particolari e vedremo come autorizzare questi otto attributi. Ci sono delle domande rispetto a quello che abbiamo visto insieme? Non so perché vi faccio questa domanda ogni volta. Okay. Allora, le azioni che facciamo in questa vita matureranno in vite future. Okay? Quindi un'azione non virtuosa o un'azione virtuosa, quando è completa, proietta una rinascita. Per esempio, uno fa un'azione di uccidere motivato dall'odio, questa azione proietta una rinascita inferiore, okay? Di sofferenza. Una volta dopo che questo karma viene esaurito, è possibile che un altro karma non virtuoso matura, ma è possibile che anche un karma virtuoso matura. E allora si prende rinascita nei rami superiori. Okay? Nel rame superiore riesperimentiamo comunque, vediamo in questa vita, no? Anche delle difficoltà, anche delle esperienze di sofferenza. Questo sono il risultato e i residui di karma passati. Residui di karma passato. Quindi principalmente quello che facciamo in questa vita maturerà nella vita futura. E vedremo, è possibile che comunque ci sono otto tipi di azione particolare che possono maturare più tardi in questa vita. Però hanno bisogno di una forza, di una proiezione molto potente, che okay? Vedremo insieme. Immediato, nel senso fai qualcosa, cioè 5 minuti dopo sperimenti qualcosa? No. Questo no. Quindi il karma è come un seme, no? Un seme quando lo metti in terra non matura immediatamente, ha bisogno di condizione particolare e col tempo si sviluppa. Quindi questa legge di causa effetto, che è una legge di causa effetto interno, anche questa ha bisogno di tempo. Okay? Quindi cercate di vedere le azioni, no? È una presentazione, è un'analogia. Ogni azione è come un seme che viene depositato nella coscienza, no? Nella coscienza. E quando le cose, le condizioni esterne si presentano, l'esperienza sorge. Però non è istantaneo questa cosa. Ci vuole un processo di tempo. Sì. Ci sono vari, è molto difficile di capire se un'azione è proiettante o completante, molto difficile di capire, okay? Però possiamo dire che l'azione quando è completa è assicurato che proietta un risultato, è proiettante. Dopo il fatto che non è completa può effettivamente non essere un'azione proiettante o no. Però è molto difficile di capire questa cosa, o si è parzialmente purificata, capito? Però in generale diciamo che un'azione ha 4 risultati, okay? Ha un risultato di piena maturazione, okay? Che sono 5 aggregati, un'esperienza simile alla causa, una tendenza simile alla causa e un'esperienza ambientale, un risultato ambientale. Questo in generale così. Sì. Allora, ok. Quindi fai un'azione di uccidere. Ok? Mettiamo che. Ok, va bene. Allora, fai una buona azione che è quella di prendere rinascita nei rami superiori. Ok? Quindi questo è il proiettante. È proiettante. Esperimenti le varie piacere che esistono nei reami superiori. Poi mettiamo che alla fine, no, muori, okay? Nei deva del rame del desiderio, muori e prende rinascita come essere umano. È sempre virtuoso, è sempre una rinascita virtuosa, però inferiore in paragone a quell'altra. E quindi avrai dei residui di questo karma che ti ha proiettato sopra, okay? E questi residui le sperimenti nell'esistenza umana. Esatto, sono dei karma completanti. Il karma proiettante ha proiettato la sua rinascita, ok? E tutto il resto sono i karma completanti. Beh, la relazione che maturano in funzione, cioè, che tipo di che relazione, cosa cerchi esattamente? Ok. Sono sicuro di capire bene cosa stai cercando. Beh, la maturazione dopo delle azioni nella vita dipendono dalle tue azioni, nel senso che di quello che fai, nel senso che se tu ti indirigi, ti prendi una certa direzione, fai maturare certe karma, no? Se ti dirigi in un altro modo, fai maturare altre cose, non è che c'è predeterminata la cosa. Esatto. Ovviamente anche nel tuo karma ha dei potenziali, per esempio se hai creato certe cause ti ritrovi a prendere rinascita in una vita umana, per esempio in una famiglia estremamente benestante o meno, ti ritrovi con un aspetto molto attraente o meno, ti ritrovi con una certa intelligenza o meno. Tutto questo dipende dalle tue azioni delle vite passate, quindi questo sono karma completante, ok? Quindi tutto questo sorge da azioni di attitudine particolare che uno ha sviluppato nel passato. Diciamo che cioè per capire meglio, cioè di solito tu fai un'azione non virtuosa pesante e che ti fa prendere rinascita nel reame inferiore. Okay? Quando dopo ti ritrovi. Quindi sia l'azione di uccidere, così prendiamo un'azione particolare, così tu capisci come funziona il karma completante. Questa azione di uccidere, commesso nella vita umana, ti fa prendere rinascita nei rami inferiori. Questo è il karma proiettante. Okay? Questo karma proiettante di questa rinascita è sperimentato in questi rami. E poi sperimenti le sofferenze che sono inerenti a queste dimensioni. Dopo viene attivato un'impronte positiva al momento della morte in questi posti e ti ritrovi proiettato in un reamo umano, okay? Quindi questo dipende di un'altra azione che hai compiuto nel passato, okay? Per ciò che riguarda l'azione prima di uccidere che ti aveva proiettato, questa azione non è completamente purificata. Non è completamente purificata. Perché hai ancora da sperimentare tre tipi di risultato sulla base di questa azione. Hai sperimentato il karma proiettante, ma ti rimani da sperimentare la tendenza simile alla causa, l'esperienza simile alla causa e il karma ambientale di questa azione dalla quale hai già sperimentato un aspetto. E questo quindi lo sperimenti in una vita futura quando ti ritrovi nello stato umano. Capito? Così che funziona. Esatto. In generale. E non possiamo andare nel particolare perché non è neanche insegnato il particolare, è perché nessuno che non ha attualizzato, diciamo, un certo livello di comprensione, di percezione di questi aspetti sottili, lo può dire. Qui dopo si ha bisogno di fare del caso per caso, e qui non c'è nessuno in grado di farlo, è uno stato presente. Okay? Quindi è così, quindi, sempre quattro risultati, un proiettante e quattro che sono completanti. Una volta che hai sperimentato il proiettante, quando ritorni nella sfera umana, ti porti addosso anche gli altri tre che non sono ancora stati completamente. Il karma non è stato completamente finito. Ok? Stessa cosa per il virtuoso. Ok? Però il virtuoso tutto matura nei rami superiori, nel caso del virtuoso. È mescolato perché, per esempio, uno prende rinascita in questa vita, mettiamo che pratichi la generosità, ok? Fa molte pratiche della generosità, però l'etica non va molto bene. Quindi ti ritrovi comunque a prendere rinascita, visto che è una predominanza visto che la causa sostanziale, la causa principale per le rinascite future, per le rinascite positive o elevate, è l'etica. Ti tagli le gambe in quel modo. E mettiamo che prende rinascita nella sfera degli animali. È dovuto a comunque il tuo karma virtuoso che tu hai accumulato quando eri umano, questo ti matura quando sei un animale. E per esempio ti ritrovi a essere un cagnolino in una famiglia molto bourgeois, una cosa del genere, capito? Ti danno il cappotto. Ti fanno i regalini per il compleanno, tutte queste cose, no? Mangi molto bene, quindi tutto il karma della tua generosità matura quando sei un essere umano, quando sei un animale. E dopo, quando ti ritrovi a ritornare nella sfera umana, sei destituto perché il karma della generosità te lo sei mangiato quando eri un animale. Quindi ecco perché è molto importante non dimenticare l'etica e associarla sempre alla generosità. Cioè, la generosità va bene, però bisogna avere l'etica, altrimenti. Sì, perché sì, anche è possibile sperimentare esperienze di felicità. Quello che viene spiegato è che negli inferni l'esperienza di felicità è impossibile per un periodo di tempo, okay? L'esperienza di felicità è impossibile perché il karma che ha proiettato è troppo intenso, l'attitudine mentale che proietta è troppo potente nell'odio, principalmente nell'odio, quindi questo blocca la possibilità di esperienze piacevoli. Infatti viene anche detto che in questi reami non è neanche possibile compiere le azioni non virtuose, perché non hai lo spazio. Nel senso che un'azione non virtuoso implica una certa soddisfazione dietro, no? Viene detto, no, che in queste sfere l'unica azione non virtuosa che puoi fare è il parlare senza il, sì, il parlare a vanvera. Nel senso che le altre non le puoi compiere. E il parlare a vanvera in questo contesto è lamentarsi. Sempre essere lì a lamentarsi dalle difficoltà e dalla sofferenza. Sì. No, non c'è bisogno. Non necessariamente, ok? non necessariamente. Allora, una cosa è chiara, che quando si scende è molto difficile di risalire, perché vediamo anche adesso che siamo degli esseri umani, abbiamo l'intelligenza e abbiamo anche molto libertà. Libertà nel senso che tra le sensazioni di piacere e le sensazioni di sofferenza, nel senso che la sofferenza non è così, abbiamo anche dei momenti dove la mente è libera sia dalla sofferenza intensa che dalla felicità intensa. E vediamo che anche in questi momenti non è che non è che siamo lì a creare le cause della felicità futura. Tutto dipende da cause e condizioni, ok? Quindi non principalmente, la causa delle rinascite superiori è l'etica. Quindi se non c'è un'etica non si creano le cause. Quindi, quando un essere prende rinascita come un animale, gli è molto difficile di creare le cause delle rinascite superiori, perché è molto difficile all'animale di avere una mente virtuosa, o di avere una mente altruistica, o di avere l'etica, tutte queste cose, no? È condizionato dalla sua condizione. Okay? Vediamo i gatti, no? Qui ci sono un sacco di gatti, quindi certe volte sì, li osserviamo, vediamo che lo stato di gatto c'è un condizionamento all'uccidere tutto quello che si muove, anche se la motivazione dietro non è intensa, okay? Che lo fa per gioco, per ignoranza semplicemente, no? È comunque un'azione di uccidere, e comunque piano piano tutte queste piccole azioni di uccidere producono dei lunghi stati di sofferenza. Quindi è molto difficile dopo per un animale di creare le cause, o anche per un essere che è racchiuso in un'esperienza di sofferenza, di creare le cause di felicità futura. Però diciamo che fortunatamente nel nostro continuum abbiamo creato anche altre fonti di felicità, no? Nel senso che l'esistenza non ha inizio, okay? Quindi abbiamo con noi un bagaglio di impronte pronti a maturare quando le condizioni vengono, principalmente non virtuose, ma abbiamo anche delle virtuose. Quindi tutto si decide al momento della morte, no? Quindi sì, l'animale, quindi l'ultimo istante di una vita, okay, è la causa sostanziale per il prossimo istante. Cioè l'istante della vita successiva. Quindi sì, l'animale riesce a morire, cioè in uno stato positivo, okay? Allora è possibile, allora sicuramente vengono attivate delle impronte virtuose che proiettano dopo l'essere in altri stati, okay? E poi semplicemente il fatto di ritrovarsi in reami superiori non significa che siamo liberi di queste cose, perché per essere libero di queste esperienze bisogna aver abbandonato tutte le azioni non virtuose. E vediamo che anche noi esseri umani, no? Principalmente siamo coinvolti in queste azioni non virtuose. Uccidere, rubare, il ferire le persone con le parole, la sessualità scorretta, queste cose, no? Quindi e nei rami superiori a quell'umano è la stessa cosa. Dove incomincia veramente a essere pacificato è quando si prende rinascita nel reame della forma, nel reame del desiderio, visto che tutto è pervaso, la mente è molto grossolana, no? Quindi c'è l'afflizione come odio e come attaccamento, sono molto predominante, la mente entra in stati non virtuosi, quindi compie delle azioni non virtuose. Invece nel reame della forma, visto che c'è la mente nell'entità della stabilità meditativa, allora la mente al massimo quando scende veramente è non specificata, cioè neutra. In generale è virtuosa, ma può diventare neutra. Okay? Quindi è impossibile nel rame della forma avere dei stati di mente non virtuosi. Quindi per loro, ovviamente. Però scendono comunque, perché quando il karma, anche se durante questo periodo non producono del karma negativo, è possibile comunque che al momento della morte matura un karma anziano che le fa scendere. Okay? Quindi di solito si dice che il samsara è il punto su una ruota che gira, no? Si scende, si va in alto, si scende, si va in alto, si scende, si va in alto. E nei trattati viene detto, no, che noi esseri umani, allora sì, guardiamo la presentazione dei vari livelli di esistenza, delle dimensioni di esistenza, abbiamo il rame del desiderio, il rame della forma e il rame del senza forma o del non forma. Il rame del desiderio, partendo dall'alto verso il basso, abbiamo gli 8 tipi di inferni, okay? Abbiamo la dimensione dei spiriti famelici, abbiamo gli animali, abbiamo gli esseri umani, abbiamo i semidei, okay? I semidei che hanno predominanza con la gelosia, okay? E dopo abbiamo i 5 tipi dei dei. Questo è rinchiuso all'interno del rame del desiderio, dove l'esperienza di piacere, di felicità è sempre più intensa, okay? Quindi questo è il rame del desiderio, significa che la mente ha sete per i rispettivi oggetti dei sensi. Significa che la felicità viene principalmente, o direi esclusivamente, sperimentata quasi esclusivamente sulla base degli oggetti esterni. Okay? Questo è il modo in quale funziona il rame del desiderio. Vediamo la nostra dimensione, no? Vediamo, noi vogliamo in che modo ricerchiamo la felicità, no? Cerchiamo la felicità con i suoni piacevoli, okay? Con i cibi piacevoli, okay? Con i vestiti belli, colori, sagoma piacevoli. Okay? Questo è il modo in quale l'essere umano, cioè gli esseri nel rame del desiderio, trovano felicità, o si appoggiano per la felicità, e quindi le coscienze hanno questa sete, no? Per gli oggetti rispettivi. Invece dopo abbiamo il rame della forma. Il rame della forma è diviso in 17 livelli. Abbiamo 17 livelli suddivisi in 4. Abbiamo la prima concentrazione, la seconda concentrazione, terza concentrazione e quarta concentrazione. Ok? Qui, allora, nel rame del desiderio abbiamo 3 tipi di sofferenza. Questo lo vedremo, spero, la prossima volta. Ok? Abbiamo la sofferenza della sofferenza, che sono tutti i dolori fisici e mentali che possiamo sperimentare. Poi c'è la sofferenza del cambiamento, che è un po' più sottile, e la sofferenza onnipervasiva di composizione, che è semplicemente lo stato non illuminato. Lo stato di essere a avere una mente afflitta. Okay? E allora, nel rame della forma già non c'è più la sofferenza della sofferenza, ma rimane la sofferenza del cambiamento e la sofferenza onnipervasiva di composizione. Okay? Quindi cioè, è già buono, è già molto buono, nel senso che non si sperimenta nel rame della forma, non si sperimenta più nessuna sofferenza fisica e mentale. Cioè, no, non è vero. Non si esperi sì, non si l'unica c'è comunque un tipo di sofferenza, ok? Ma non si sperimenta quello che le sofferenze che sono sì, fi fisiche, le sofferenze fisiche non vengono più sperimentate, e anche i sconforti mentali, diciamo le sofferenze mentali, non vengono più sperimentate, ok? E come si fa per prendere, allora, si prende rinascita nel rame del desiderio, nei rami superiori, con l'etica, okay? Con l'etica. L'etica è la causa che produce le rinascite di felicità. Nel rame del senza forma, nel rame della forma, in più dell'etica, bisogna attualizzare delle stabilizzazioni meditative. Allora, ci sono 4 livelli di concentrazioni. Quando sulla base di questo corpo, uno. Quindi pratica l'etica, e quest'etica gli funge di base per sviluppare la stabilizzazione meditativa. Se uno realizza la seconda concentrazione, che è una mente che ha delle caratteristiche particolari, allora alla fine di questa vita prende rinascita nel secondo livello di concentrazione del rame della forma. Questo è un karma inamovibile. È inamovibile perché quel karma non può essere sperimentato altro che nella seconda concentrazione. Invece per gli altri karma abbiamo visto, no, che il karma virtuoso può essere anche sperimentato nel rame inferiore, e il karma non virtuoso può essere anche sperimentato nel rame superiore, completante. Invece il karma inamovibile necessariamente viene sperimentato nella concentrazione risultante. Quindi, e qui quindi gli esseri hanno un corpo non fatto di materia grossolana, cioè molto più sottile, Ok? E la felicità è molto intensa, molto intensa. C'è un'estasi mentale, è un'estasi mentale dovuto alla stabilizzazione meditativa. E poi, quindi per prendere rinascita in questi livelli, bisogna essere separato dai livelli di attaccamento al rema del desiderio. Nel senso che lo sviluppo della prima concentrazione viene ottenuto quando la mente si è liberata dei nuovi livelli di attaccamento al rema del desiderio. La seconda concentrazione viene attualizzata quando la mente è liberata dei nuovi livelli di attaccamento alla prima concentrazione. La terza concentrazione viene attualizzata quando la mente è libera dei nuovi livelli di attaccamento alla seconda concentrazione, eccetera, eccetera, fino alla quarta concentrazione. Ok? Quindi quando dico liberato dai livelli di attaccamento, significa che non è che sono completamente sradicati, ma diventano non manifesti. Capito? Dovuto al percepire questi livelli nella natura della beatitudine e dell'estasi e a osservare questo livello nella natura della sofferenza, la mente molla, okay? E ricerca qualcos'altro. Okay? Quindi questo si chiama un sentiero mondano, okay? In quel modo che si muove. E poi abbiamo anche il rema del senza forma. Il rema del senza forma, questa è una dimensione solo mentale, nel senso che non c'è forma. Questo è attualizzato dagli esseri che sono anche separato da tutto ciò che è attaccamento ai vari oggetti dei sensi, perché nel rame della forma ci sono anche gli oggetti dei sensi molto più sottili di quello del rame del desiderio, però loro le considerano come fonte di scontentezza, okay? E quindi si liberano anche dei livelli di attaccamento al rame della forma, okay? E quindi prendono quello che viene chiamato un rinascita nel senza forma. Allora il senza forma è semplicemente la mente al momento della morte, okay? Si assorbe nella contemplazione unica di qualcosa, no? Per molto tempo, okay? Quindi rimane solo quattro aggregati mentali, non c'è più l'aggregato della forma per molto tempo, okay? Allora secondo il Buddha insegnamenti, noi tutti, allora il rame del senza forma, quindi si trova, abbiamo quattro livelli che sono spazio infinito, coscienza infinita, nullità e vetta dell'esistenza ciclica. Questo è il livello il più elevato all'interno dell'esistenza ciclica. Okay? Il Buddha e anche l'Amazon Kappa nei scritti spiega che noi esseri senzienti abbiamo preso rinascita in tutti questi livelli, anche la vetta dell'esistenza ciclica, un numero di volte, innumerevole volte. Dice così, un numero di volte incommensurabile, ok? Però siamo sempre all'interno dell'esistenza ciclica, quindi le concentrazioni, gli assorbimenti le abbiamo sviluppati. Quello che non abbiamo mai sviluppato è la concentrazione associata alla comprensione della realtà, ok? Alla comprensione della realtà, perché questo ti libera dell'esistenza ciclica. Quindi anche se abbiamo viaggiato i livelli superiori, era sempre motivati da ricercare una più ampia felicità, però era sempre condizionato dall'ignoranza. Quindi alla fine rimani comunque bloccato in questo ciclo. Allora Shinè è il più basso, nel senso che Shinè è la prima preparazione alla prima concentrazione, quindi ha altri sette livelli per arrivare alla prima concentrazione. Quindi Shinè è proprio Shinè, che in italiano è il calmo dimorare, no? È questa concentrazione, in sanscrito è Shamatha, ok? Quindi il calmo dimorare, ok? Che è questo supporto meditativo, dove questo supporto di mente, dove la mente è in grado di dimorare al minimo 4 ore su un oggetto di osservazione senza muoversi, ok? Quindi ma neanche separatamente, direi, cioè neanche separatamente abbiamo generate concentrazione, ma non abbiamo mai incontrato quando abbiamo incontrato l'insegnamento sulla visione corretta, non siamo stati in grado di sviluppare la concentrazione. E quando abbiamo stato in grado di sviluppare la concentrazione, eravamo privi dell'insegnamento sulla visione corretta. Ok? Ecco perché siamo sempre qui. Come? I vari bumi sono livelli di realizzazione, non sono livelli di concentrazione o terre esterne. No, non ha da che fare. Beh, è un'altra cosa questo. Livelli sono sentieri, sono stati di coscienze, non sono dei livelli esterni dove uno prende rinascita. Per inizialmente entrare in un sentiero è la rinascita umana. Inizialmente è la rinascita umana. Ok? Inizialmente entrare sul sentiero. Poi dopo uno può fare altre cose in altri livelli. Della forma o del desiderio? Del senza forma i bodhisattva non prendono rinascita nel rame del senza forma, perché non c'è il suono, quindi nell'insegnamento non può neanche ricevere. Perché inizialmente è la dimensione umana? Perché ha questa libertà tra la sofferenza intensa, che non ti lascia spazio a niente. Basta vedere quando abbiamo un po' fame o quando abbiamo un mal di testa, è impossibile praticare qualcosa. Okay? La mente è assorbita in questa cosa. O anche quando la temperatura è un po' elevata, la vedo d'estate per esempio, diventa molto difficile mettersi a meditare o a studiare quando abbiamo 30 gradi, no? 35. Quindi e anche quando la mente è completamente pervasa, imbriacata, ok? Di esperienze piacevoli, allora non c'è neanche spazio per pensare a qualcosa che va al di là di questa esperienza. Ecco perché inizialmente è la vita umana, perché ti lascia questa libertà, ok? C'è questa dovuta all'entità dell'esperienza umana. Perché entrare in un sentiero cosa significa? Che cos'è un sentiero? Un sentiero non è qualcosa che seguiamo, cioè, un sentiero è una mente dove al minimo troviamo la mente di emersione definitiva e spontanea, al minimo. Quando uno ha questo, ha generato questo, allora ha un sentiero nella sua mente, un sentiero che lo porterà dove? Alla liberazione, okay? Ossia la bodhicitta allo stato di Buddha. Quindi inizialmente generare questa mente di emersione definitiva, quindi che è volgarmente la mente di rinuncia, okay? Si genera solo sulla base di un'esistenza umana. Il sentiero della visione, che è la realizzazione diretta della vacuità, può essere fatto su livelli superiori del desiderio della forma, okay? Però anche qui il supporto migliore è sempre quello umano. Ok, andiamo avanti. Okay, il karma non lo finiamo oggi, questo è chiaro. Quindi distinzione di peso delle azioni. Okay? Quindi forse guardiamo, sì, lo vediamo dopo. Allora, il peso di un'azione, quindi che cosa determina, cosa implica il peso di un'azione? Il peso di un'azione significa che per esempio l'esperienza di sofferenza o di felicità sarà più o meno intensa e più o meno lunga in dipendenza del peso di questa azione. Allora per il peso dell'azione abbiamo cinque criteri che determinano un'azione pesante da un'altra. Allora prendiamo sempre l'azione di uccidere, perché così si capisce bene, abbastanza chiaro, no? Allora il primo criterio è l'attitudine. Nel senso, l'attitudine Al momento l'attitudine che è, nella quale quell'azione viene compiuta, nel senso che più la forma delle tre afflizioni è intensa, automaticamente più l'azione è pesante. Questo è il criterio più importante, nel senso, se andiamo a uccidere motivati da un forte odio, automaticamente l'azione è molto pesante. Se invece andiamo a uccidere per ignoranza, ok, dovuto a un livello di avversione, diciamo, più leggero, allora l'azione è meno pesante. Per esempio, uccidere in tempi di guerra il nemico corpo a corpo, questo c'è una ben pesante, perché l'odio è ben presente. Invece, eliminare semplicemente l'esistenza di una zanzara, c'è avversione, ci può essere l'avversione, però è molto leggera. Almeno che questa zanzara ci annoia da una ventina di minuti, allora a quel momento automaticamente l'afflizione mentale è ben più presente, più sviluppata. Ok, quindi il primo è l'attitudine, significa l'intensità dei tre veleni mentali, dei tre afflizioni mentali. Okay, poi abbiamo dopo il performance, come si dice performance? Il modo di compiere l'azione, okay? Il modo nel quale l'azione viene compiuta, la maniera, ecco, la maniera. Okay? Per esempio, con una mente che si dilizia nell'azione, più la mente si dilizia, prende gioia nell'azione, automaticamente più l'azione viene pesante, O anche se mentre si fa questa azione portiamo anche altri a compiere questa azione, così viene più pesante. Sì, l'azione viene fatta quindi con premeditazione, okay? Se l'azione viene premeditata, allora automaticamente è molto più pesante. Sì, l'azione viene fatta con costanza, in un modo regolare, più abbiamo un'azione che viene fatta regolarmente, più questa azione piano piano prende il peso. Questo è uguale per il virtuoso come il non virtuoso, okay? Nel caso di uccidere, per esempio, anche si fa soffrire molto l'animale o la persona, okay? Automaticamente aumenta, okay? Si spaventa, okay? Automaticamente aumenta, no? L'essere è privo, più l'essere è privo di difesa, okay? Quindi è debole, sofferente, più questo il peso dell'azione viene accumulato. Okay? Dopo, come terzo criterio che aumenta il peso dell'azione, è l'assenza di antidoti. Assenza di antidoti. Questo significa che, per esempio, questa è la persona, no? La persona ha un impegno unilaterale nella non virtù, mai prende i precetti di 24 ore, mai fa delle azioni virtuose, okay? Mai genera della vergogna, dell'imbarazzo o del rimorso all'incontro delle sue azioni, okay? Non cerca di liberarsi dall'attaccamento, non è libero dall'attaccamento, okay? O non ha reso l'attaccamento non manifesto, quindi non ha sviluppato concentrazione, e non è neanche libero dall'attaccamento tramite un sentiero sopramondano, quindi una percezione diretta della realtà. Questo aumenta, quindi per noi esseri ordinari le azioni sono più pesanti automaticamente. Il quarto criterio è l'afferrarsi allo scorretto, e questo significa che afferrarsi alle visioni errate. Quindi più la mente ha predominanza di visioni errate, automaticamente le azioni sono più pesanti. Quindi le visioni errate sono, le abbiamo viste quando abbiamo fatto le 10 azioni non virtuose, perché questo è la numero 10, no? Ma sono il negare, cioè non soltanto non pensarci, ma dopo aver pensato, negare l'esistenza di vite passate e future, negare la legge di causa effetto, negare l'esistenza del nirvana, degli arya, tutte queste cose. Yeah. Quindi le visioni errate sono cinque. Abbiamo le visioni errate in generale, poi abbiamo cinque visioni che si chiamano anche saggezze afflitte. Abbiamo la visione del transitorio, abbiamo la visione che sostiene una visione estreme, abbiamo la visione che adera a una moralità e un'etica scorretta come suprema, eccetera, eccetera. Questi sono vari tipi di visione erronea. E dopo abbiamo anche il come quinto criterio che rende un'azione più o meno pesante, è la base. La base, per esempio, se prendiamo il caso di uccidere un animale grosso è più pesante che uccidere un animale piccolo. Perché? Mi potete dire, ma perché? Beh, l'impegno non è lo stesso. Se volete uccidere un elefante, non è così facile che uccidere un insetto, per esempio. Okay? Questo è uno. Quindi l'impegno, automaticamente l'impegno che va messo è diverso. L'altro è dovuto alla forza vitale. La forza vitale, essendo quindi superiore, molto più potente in un animale voluminoso, quindi grosso, che uno piccolo. Quindi per un animale abbiamo questa differenza, no? Altrimenti a uccidere un essere umano è più pesante anche che uccidere un animale, no? Uccidere è dovuto al suo potenziale, eccetera. Uccidere i propri genitori. Okay, questo è molto, cioè è una delle cinque azioni a retribuzione immediata, che è dovuta al legame karmico. O le persone che sono vicine, le persone che ci hanno aiutato, che ci hanno beneficiato, automaticamente dovuto alla legge di causa effetto più pesante. Okay? Uccidere degli esseri che hanno della realizzazione, okay? È più pesante. Okay? Questo. Ok, e quindi queste cose vanno anche a. Quindi questi cinque criteri che abbiamo visto, no? Dell'attitudine, della maniera, dell'assenza di antidoto, dell'afferrarsi alla visione erronea e anche della base, va anche messo sul rubare, sulla solita scorretta, sul mentire, sulle parole che dividono, sulle parole che feriscono, sul parlare a vanvera, sulla mente di bramosia, sulla mente di malevolenza e sulla generazione di visione erronea. Ok? Quindi in altri testi potete trovare, invece di 5 criteri, 6. 6 criteri. Sì. Uno dei due. Vai. Come? Allora, fammi un esempio. Perché ok, ok. Allora, il suicidio è un'azione di uccidere, okay? È comunque un'azione di uccidere, però non è un'azione di uccidere completa, perché la base, abbiamo visto che uno dei quattro fattori per un'azione completa è che la base sia un altro essere che se stesso, okay? Quindi non abbiamo la base e non c'è anche la conclusione, okay? Perché non c'è il rallegrarsi dell'azione. Quindi, però è comunque un'azione di uccidere, è comunque quindi un'azione dove verrà sperimentato un risultato di difficoltà, non so quale, in quale proporzione, però rimane comunque un'azione di uccidere, però non è completa. Okay? Allora, uccidere per salvare la propria vita, non vedo questo da un occhio buono. Okay? Per salvare altri, questa è già un'altra cosa, okay. Però comunque l'azione di uccidere non potrà mai diventare qualcosa di virtuoso, perché la sua capito? dobbiamo capire che qui il virtuoso, non virtuoso, non è dal punto di vista della circostanza o dal punto di vista morale o dal punto di vista della convenzione. No, è virtuoso, non virtuoso, ciò che dà fonte a un'esperienza di felicità o ciò che dà fonte a un'esperienza di sofferenza. Allora, rispettivamente si chiamano virtù, non virtù. O ciò che dimora in una classe di maturazione di felicità, o ciò che dimora in una classe di maturazione di sofferenza. Questo è virtù o non virtù. Qui non c'entra niente con le circostanze, non c'entra niente con la moralità o con la convenzione. Il Buddha l'ha percepito direttamente e quindi ha detto: se non volete sperimentare questo, non fate questo. Se non volete sperimentare quest'altra esperienza, non fate quest'altra esperienza. Ecco come sono uscite la lista. No, cioè, non andiamo in queste cose, ok? Sì. L'includerò nella mia risposta, ok? Ok, allora, nel caso di uccidere, no? Per esempio, puoi uccidere qualcuno anche motivato da compassione, nel senso, se tu vedi qualcuno che sta così soffrendo, un animale che sta così soffrendo, dici: ma facciamogli una puntura, ok, per alleviare la sua sofferenza. Rimane comunque un'azione di uccidere. Comunque rimane un'azione di uccidere. Però non sei nel ramo dell'attitudine, non è presente, diciamo, l'avversione non è presente, la motivazione, anzi, è una motivazione di compassione. Quindi questo fa che l'azione non è che diventa virtuosa, è sempre non virtuosa, perché l'entità è di uccidere. Però il risultato di questa azione, ok, non sarà così, così di sofferenza come uno che uccide motivato dall'odio. Capito quello che voglio dire? È che la tua motivazione determina, non fa cambiare l'entità dell'azione, ma cambia la maturazione di questa azione, l'intensità di maturazione di questa azione. Allora, avevo letto un giorno, no, un discorso che faceva la Mayesh, diceva, no, che si vediamo, per esempio, un essere che sta per fare, esplodere qualcosa, no, per uccidere molte persone. Allora dice: è motivato da compassione, ma non dall'odio, motivato dalla compassione per la persona e per le vittime potenziali. Dobbiamo neutralizzare questa persona, perché il problema, no, non è solo che questa persona, no, fa saltare qualcosa e uccidere e crea sofferenza per molti, ma crea anche delle condizioni per lui sperimentare grande sofferenza nel futuro. Quindi, avendo questo in mente, anche questa persona va neutralizzata, ma non manifestato da, non motivato dall'odio. Questo perché questo è ignoranza, no? Quindi in questo contesto, allora, motivato dalla compassione, uno assuma su di sé il potenziale di sofferenza che esiste in questa azione. Però c'è comunque un potenziale di sofferenza. Dopo può essere purificato, eccetera, eccetera, ma c'è comunque un potenziale di sofferenza, perché questa è la natura dell'azione, eh? Come il fuoco brucia. Non c'è un momento dove il fuoco non brucia, è la sua natura. Quindi in questo contesto, allora, c'è nella storia, no? Nei racconti dei maestri, dove effettivamente hanno preso su di sé l'uccidere delle persone, come il Buddha Shakyamuni, prima di diventare Buddha, quando era ancora un bodhisattva, era capitano di una nave e c'erano dei mercanti su questa nave, no? Qui erano ben caricati di ricchezze, di provisione, eccetera, di stoffe varie, e ce n'era uno che aveva deciso di avvelenare gli altri mercanti per rubare tutta questa cosa, no? E quindi questo capitano, quindi, che era un bodhisattva, ha preso su di sé di uccidere questo qua, non motivato dall'odio per uno e da amicizia per gli altri. Cioè, la sua motivazione era completamente pura, equanima, ci aveva compassione per entrambi, okay? Quindi per evitare che questo creasse delle cose di sofferenza in futuro, ha preso su di sé di ucciderlo, perché non c'era altro modo. Questa è una possibilità, okay? E viene anche detto che, dovuto alla sua motivazione, però era un bodhisattva. Invece bodhisattva sono dei extraterrestri in paragone ai nostri funzionamenti di mente, che questo ha anche accelerato il suo sentiero, quindi per noi essere senzienti, ordinari, okay? State attenti a quello che fate. Allora, c'è anche un altro caso nella storia dove c'era questo, era all'interno di un lineaggio, questo è ciò che ha da vedere con il lineaggio dei sei yoga di Naropa. All'interno dei sei yoga di Naropa c'è una pratica del trasferimento della coscienza, ok? Trasferire la coscienza, la propria coscienza in altri corpi, ok? In cadaveri, una cosa del genere, ok? E quindi c'era questo, che mi sa che era Ralutsawa, però non sono sicuro, che aveva percepito, quindi questo era in Tibet, aveva percepito che sì, questo lineaggio venisse portato avanti, nel futuro avrebbe causato una grande degenerazione. Quindi ha preso di sé la responsabilità di uccidere 13 bodhisattva. Ha ucciso 13 bodhisattva che avevano anche segni di irreversibilità. Quindi non è che le uccide, cioè dovete capire che non è che le uccide col coltello, nel buio, le aspetto, non uccidono in quel modo questi, uccidono con il potere della concentrazione, trasferiscono, sono in grado con la concentrazione di separare la coscienza dall'aggregato della forma. Questo è perché hanno controllo sui venti, eccetera, quindi sono cose molto elevate. Quindi ha preso su di sé la responsabilità di uccidere questi 13 bodhisattva per evitare per fare in modo che questo lineaggio venisse perso, che non venisse più portato avanti, perché altrimenti avrebbe causato danni al Dharma, avrebbe causato una degenerazione dell'insegnamento. Quindi sono condizioni molto particolari, sono motivati solo dalla mente di grande compassione, e sono fatti negli esempi da esseri molto particolari. Poi quando questi esseri uccidono, non uccidono in un modo ordinario, sono assicurati anche che prendono rinascita in una sfera di felicità, hanno controllo anche su queste cose. No, siamo tra di noi, è per questo. È un trasferimento, è completamente diverso. Qui si parla proprio di abbandonare quel corpo e di prenderne un altro, visto la persona vede che la pratica non può essere portata avanti con questo corpo perché ha certe malattie eccetera, ok? Allora per il proposito di portare avanti la pratica se ne prende un altro. Sì, sul corpo. È nel caso di una persona che è giovane, che è morta da poco tempo, okay, dove il corpo è un corpo essere ancora utilizzato. Però questo è finito, è perso il lineaggio di questo. Ok, quindi andiamo avanti. Ok, allora sì, dicevo che nel testo di Asanga, i livelli degli azioni yogici, sei fattori vengono presentati invece di cinque. Abbiamo il condizionamento, l'afflizione, più o meno intensa, uno, la frequenza o l'abitudine, due, una che non c'era prima, è la natura dell'azione. Certe azioni sono più pesanti che altre, per esempio l'azione di uccidere è più pesante che il parlare a vanvera, è chiaro? Quindi questo è un fattore anche che determina la pesantezza dell'azione. La base o l'oggetto, per esempio, se l'azione non virtuose viene compiuta, allora il più pesante sono per esempio i propri maestri. Okay? Propri maestri è l'azione la più diventa il supporto il più pesante. Okay? O gli esseri che hanno qualità, tipo Yari, Bodhisattva, eccetera. Dopo, subito dopo, abbiamo i propri genitori, dovuto al fatto che ci hanno dato questo corpo. Allora, i genitori in questo contesto sono i genitori biologici, okay? Dovuto al legame karmico, dovuto al fatto che ci hanno dato questo corpo, automaticamente le azioni diventano molto pesanti, no? Dovuto a questo fattore. Ok? Quindi gli insegnanti, dopo vengono insegnanti, eccetera, eccetera. Ok? Questo è il quarto, quindi l'oggetto, la base. Il quinto è la fissazione sui fattori incompatibili. Questo significa, per esempio, essere completamente fissato univocamente sul compiere non virtù. Non c'è mai qualcosa per ribilanciare, non c'è mai una pratica virtuosa, eccetera. E il sesto è la non eliminazione dei fattori sfavorevoli, dovuto a non essere libero dell'attaccamento o dovuto al non applicarsi negli antidoti, okay? Non applicare antidoti. Ok, e dopo viene presentato nei trattati anche il potere di un'azione. Ok, qui abbiamo visto il peso, adesso vediamo il potere di un'azione, quindi la cosa è molto simile, però guardato da un altro angolo, ok? Quindi il potere, per primo, è in termini di recipienti, ok? Recipienti. Quindi questo l'abbiamo visto, no? Prima abbiamo, è simile alla base, okay? Simile alla base. Quindi l'azione diventa molto potente quando un'azione virtuosa, non virtuosa, viene fatta all'incontro dei tre gioielli, proprio guru, i propri insegnanti. Okay, i propri genitori, eccetera, persone che ci hanno beneficiato, eccetera, eccetera. Quindi anche a livello, e questo non parliamo solo di azione di corpo e di parola, ma anche a livello di mente, okay? Per esempio, istante di odio, istante di disprezzo, all'incontro di queste persone hanno un impatto negativo, okay? Hanno un impatto di sofferenza per noi nel futuro. Ok? Per esempio, no? Viene detto, non c'è questo sutra, il sutra che si chiama Il sigillo dell'impegno nel sviluppo del potere della fede, questo nome, dove viene spiegato, no? che uno che deprezza con odio un bodhisattva, no? Dicendo che cioè, proprio lo deprezza. Allora il risultato è che il risultato, cioè il potere di questa azione è simile, per esempio, a rubare tutti i possedimenti di essere senzienti, dovuto al potere della realizzazione di questa persona, no? O è uguale a arrabbiarsi all'incontro di tutti gli esseri senzienti e metterli in prigione, quindi è il livello, no? O distruggere un numero di stupa che è uguale ai grani di sabbia del Gange. Quindi dobbiamo essere molto attenti nelle nostre attività, no? Di corpo, parola, ma anche di mente, all'incontro delle persone perché non sappiamo mai a chi siamo confrontati, no? Io mi ricordo che mio maestro diceva sempre che arrabbiarsi all'incontro delle persone, o generare dell'odio, dell'avversione, del deprezzo anche all'incontro delle persone, è come camminare su delle cenere. Non si sa se sotto ci sono ancora delle braccia, si dice così, okay? Nel senso che tutto appare estinto, no? però si mette il piede al posto sbagliato, ti fai male. Quindi lui diceva che arrabbiarsi o generare deprezzo o criticare anche disprezzo o arrabbiarsi o criticare era molto simile a questa situazione, perché non sappiamo chi abbiamo di fronte. Invece, quindi, questo un altro sutra che è il sigillo dell'impegno in certezza, nell'impegno delle destinazioni certe e incerte, spiega che osservare con fede chiara, ok, un bodhisattva che si delizia nel Mahayana, e quindi è parlare bene di questa persona, ok, è simile a a dare la vista a tutti, a ridare la vista a tutti gli esseri senzienti nel caso che l'avevano persa, okay? Quindi il potere di questa azione è simile a questo, o a liberare tutti gli esseri senzienti di prigione, no? L'opposto. Quindi questo è per illustrare il fatto che il sopporto dell'azione, il sopporto cambia il potere di un'azione. Cambia il potere di un'azione. Ok, il secondo abbiamo, quindi questo era il recipiente. Poi abbiamo in termini di vocabolario quindi il primo era il recipiente, ok, e l'abbiamo spiegato. Il secondo è il sopporto è se stesso, ok, il sopporto è se stesso, perché sopportiamo l'azione, invece l'altro riceve l'azione. Quindi noi, per esempio, se abbiamo assunto dei voti, o se abbiamo assunto una certa etica, allora il potere della nostra azione, per esempio virtuosa, è più potente, o le nostre azioni non virtuose sono meno potenti. È come questa storia che ho fatto la settimana scorsa, due settimane fa, no? Con questa palla di acciaio, questa palla di ferro, no? Non galleggia, però questa stessa massa di ferro, no? Se gli viene data una sagoma particolare, galleggia, per esempio le navi, no? Quindi questo significa che la persona che ha una certa conoscenza, per questa persona le azioni non virtuose sono meno pesanti. Dovuta a che cosa? Dovuta al fatto che questa persona non ha un comportamento unilaterale nella non virtù. Sono anche delle pratiche virtuose, quindi ribilancia la situazione un po'. Poi c'è anche l'utilizzo dei quattro poteri opponenti per purificare questa azione. Poi ci sono anche l'assumere dei voti. Tutto questo fa in modo che le sue non virtù sono meno pesanti, e invece le sue azioni virtuose sono più pesanti, hanno più potere. Ok? Poi abbiamo l'oggetto, nel senso che quando si pratica la generosità, viene detto, per esempio, che la generosità dell'insegnamento viene considerata come avendo più potere, no? Poi abbiamo il servizio o aiutare, e poi abbiamo la generosità materiale, okay? Quindi dipende da quello che viene dato anche, e dicono che rispetto, quindi questo è rispetto agli esseri senzienti, rispetto ai maestri o ai Buddha, la generosità che ha il più grande potere è la propria pratica, quindi mettere in pratica le istruzioni, ok? Sì, siamo un po' lontano qui, eh. Continua. No. Ma infatti, però, nel senso che l'azione di uccidere, per esempio, uno prende dei voti di liberazione individuale. All'interno dei voti di liberazione individuale c'è l'azione di non uccidere. Se uno uccide è ancora peggio, perché ha una non virtù naturale, ok? e poi ha una non vertù dovuta al codice etico. Però non sto parlando di questo. Sto parlando che se uno, per esempio, di qua, di là, prende dei voti di 24 ore, ok? Allora questo, il fatto che lui per periodi assume quest'etica, questo fa perdere potere anche alle sue non vertù accumulate. Questo che sto dicendo. E anche comunque anche il fatto di aver assunto dei voti di liberazione individuale, okay? Anche se di qua di là ci sono delle azioni non virtuose, non hanno comunque così tanto potere di qualcuno che ha un comportamento unilateralmente indirizzato nella non vertù. Certo, è questo che sto dicendo. No, anche nell'immediato. Anche nell'immediato. Nel senso, se uno prende dei voti e in più fa delle azioni non virtuose, è peggio? No. Se tu rompi il voto, nel senso si fa una non vertù inclusa all'interno dei voti, sì. Ma comunque anche se c'è questa non vertù dovuta alla vertù accumulata, perché quando uno prende dei voti, cioè accumula del karma positivo e sta purificando delle non vertù istante dopo istante, ok? Anche nel senso che anche quando dormi stai praticando i tuoi voti. Ecco perché è di grande beneficio di avere dei voti. Perché le persone che non hanno dei voti, per accumulare le azioni virtuose, per esempio per praticare le 10 virtù, non uccidere, okay? non rubare, non fare sessualità scorretta, eccetera, tutte queste cose, no? Devono effettivamente farlo, nel senso che devono salvare la vita degli animali o salvare la vita di persone, eccetera. Uno che ha dei voti, anche quando è nel bagno, nella vasca, ok? Sta praticando i suoi voti, perché sta praticando il non uccidere, il non aver sessualità scorretta, tutte queste cose, capito? Quindi dovuto a questo automaticamente le non vertù che vengono fatte in generale perdono anche un po' del loro potere, perché c'è applicazione di antidoti in un certo modo. Però è giusto che all'interno, se uno prende i voti di 24 ore e rompi il voto, allora è un po' pesante. Questa azione è un po' pesante, ma in generale quell'azione ha un beneficio di alleviare il karma non virtuoso in generale, compiuto e che verrà compiuto, perché di qua di là c'è l'applicazione negli antidoti. Questo in questo modo. Ok, poi abbiamo, quindi abbiamo visto l'oggetto, ok? L'attitudine. Allora, per esempio, questa viene illustrato da esempi, non c'è bisogno di parlarne molto. Se prendiamo in considerazione la mente di Bodhicitta, ok? Se facciamo un'azione virtuosa, ok? Con il desiderio di sperimentare, per esempio, la pratica della generosità, per sperimentare il benessere nella vita futura. Funziona. È legge di causa effetto, funziona. Ok? Però è molto debole come azione, è molto debole. Invece sì, la motivazione è più elevata, più ampia, per esempio, se un'azione di genere, questa stessa azione viene compiuta con la mente di Bodhicitta, visto che la mente di Bodhicitta ha come oggetto di osservazione tutti gli esseri senzienti, il karma è incommensurabile. Per esempio un bodhisattva, no? Diciamo così, se tutti nei testi c'è questo sutra che si chiama il cumulo di gioielli, è un sutra, quindi dice, c'è il Buddha che presenta le cose in quel modo. Immaginate che prendiamo tutti gli esseri senzienti. Quindi tutti gli esseri senzienti non sono solo gli esseri umani, sono tutti gli esseri senzienti. di 3 miliardi di sistemi di mondi, quindi se ne sono un po'. E tutti questi esseri fanno dei stupa, no? Ciascuno fa uno stupa grande, cioè grande come, come una montagna, no? Okay? E fanno offerte, eccetera, per 10 milioni di eoni, quindi una bella quantità di energia virtuosa che viene creata, no? E dice che un bodhisattva che ha questa mente di bodhicitta, quella spontanea, non parliamo di quella artificiale che generiamo all'inizio dell'insieme, quella spontanea, dice che offre un singolo fiore, ok, a uno stupa con questa mente, genera lo stesso livello di energia virtuosa, perché è dovuta all'amplitudine della sua mente, okay? Visto che osserva, lo fa per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, non lo fa per il suo beneficio personale, lo fa per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, quindi automaticamente, e visto che il suo scopo anche è una virtù ultima, l'ottenimento dello stato di Buddha, che diventa una fonte di felicità per gli altri, allora la sua azione ha un potere straordinario. Quindi noi dovremo cercare di fare la stessa cosa quando facciamo le nostre pratiche, quando facciamo azioni virtuose in generale, ma anche quando ci alziamo la mattina, che andiamo a lavorare, eccetera. Se arriviamo ad avere questa motivazione durante la nostra giornata, cambia molte cose. Quindi cosa significa che un'azione abbia potere o no? Significa che questa azione proietta una rinascita umana, o una rinascita come semidei, o una rinascita ancora più elevata all'interno del rame del desiderio. Perché questo dipende dal potere dell'azione, no? Dal potere dell'azione. O che un'azione che la sua maturazione di felicità dura per molto tempo o per poco tempo, tutto questo dipende dall'amplitudine della motivazione, della forza dell'azione. Non vorrei fare due volte le stesse cose, perché non è che seguiamo necessariamente, ok, gli effetti li abbiamo visti, ok. Allora sì, in generale, presentazione della classificazione del karma, ok, quindi questo ne abbiamo già accennato. Abbiamo visto che abbiamo due tipi di karma: il karma proiettante e il karma completante, ok. Quindi il karma proiettano è definito nel proiettare una rinascita, un tipo di rinascita particolare in accordo alla natura dell'azione, okay? Nel senso che il non virtuoso necessariamente proietta l'inferiore, okay? Allora in accordo, dopo dipende dalla forza e dal potere dell'azione o della non virtù, abbiamo il proiettare nella sfera degli animali, il proiettare nella sfera dei preta, o il proiettare nella sfera ancora sotto, okay? Questo dipende dal potere dell'azione, ma una stessa azione può avere questi vari risultati, okay? Invece il karma completante non ha questa non è definito in quel modo, nel senso che il positivo può anche maturare, può completare una rinascita di sofferenza, e il non virtuoso può anche completare una rinascita di felicità. Per esempio la nostra esperienza umana è un karma virtuoso proiettante, e nella vita di tutti i giorni abbiamo dei karma completanti, virtuosi e non virtuosi, okay? Quindi abbiamo una permutazione quadruplice. Ok, allora, quindi dopo abbiamo dei karma che sono accumulati, e dei karma compiuti. Sono vari tipi di karma, compiuti e accumulati. Okay? E abbiamo dei karma che sono certi, dalla quale l'esperienza è certa, e altri dalla quale l'esperienza invece è incerta. Okay? Per esempio, il karma che dobbiamo sicuramente sperimentare è il karma che viene compiuto in un modo conscio. Okay? Allora, questo è che viene accumulato, quindi accumulato e fatto in un modo conscio. Conscio. E quello che è incerto è, può essere fatto in un modo conscio, ma non è accumulato. Quindi che cos'è un karma accumulato e non accumulato? Un karma in generale viene compiuto, si chiama compiuto, quando abbiamo pensato all'azione e quando abbiamo in un modo conscio messo le cose in movimento. Questo si chiama che il karma viene compiuto, è compiuto. Adesso il karma accumulato è altro che questi casi, quello che facciamo nei sogni. Nei sogni il karma non è accumulato. Okay? Il karma che facciamo senza conoscerlo, che okay? Questo non è accumulato. O quello che facciamo in un modo inconscio, questo è anche non accumulato. Privo di intensità, questo non è accumulato. Questo che è quello che facciamo per errore, questo non è accumulato. Questo è quello che facciamo dovuto alla distrazione, siamo distratti, questo non è accumulato. Quello che facciamo senza volerlo, che siamo spinti a farlo, questo non è accumulato. Con il karma che è eticamente neutro, non è accumulato. Per esempio abbiamo sete e si beve un bicchiere d'acqua. Questo è eticamente neutro. Quello che viene eliminato dal rimorso, questo non è accumulato. Okay? E il karma che viene eliminato dagli antidoti, anche questo non è accumulato. Quindi questi vari karma non sono certi di maturare, non hanno la maturazione certa. Quindi questo implica che possiamo rendere anche dei karma che adesso sono certi di maturare, le possiamo rendere incerti di maturare con l'applicazione dei quattro poteri. Okay? Quindi in generale, questo dicevo prima, no? Ci sono 8 tipi di azione che possiamo sperimentare in questa vita, 8 tipi di azione, e sono 4 coppie. Quindi abbiamo le azioni non virtuose, fatto con un'attitudine, un'attitudine predominante per proteggere il proprio corpo, la propria vita, la propria esistenza, il proprio corpo o le proprie possedimenti. Quindi quando un'azione non virtuosa viene fatta con questa attitudine di proteggere il proprio corpo, la propria esistenza, i propri possedimenti, è possibile che matura in questa vita. O un'azione virtuosa con un'attitudine predominante che non riguarda, che non fa attento al proprio corpo, alla propria esistenza e ai propri possedimenti. Quindi questo anche può maturare in questa vita. Abbiamo un'azione non virtuosa compiuta con un'attitudine di forte malevolenza all'incontro di esseri senzienti. Può maturare in questa vita. Forte malevolenza, cioè potente, cioè il desiderio di far del male, no? Ho un'attitudine virtuosa motivata da grande compassione, o di voler essere di aiuto, che questo slancio sia forte, potente, allora può maturare in questa vita. Un'azione non virtuosa motivata da una grande animosità all'incontro dei tre gioielli, matura in questa vita. O invece un'azione virtuosa motivata da grande fede, una fede profonda all'incontro di questi, matura anche questa vita. Azione non virtuosa compiuto con attitudine di grande inimicizia, si dice così, inimicizia all'incontro di quelli che ci hanno aiutato, okay? I propri genitori, i propri insegnanti, i propri maestri, con un'attitudine di non voler ricambiare il bene fatto, questo matura in questa vita. E invece l'opposto, un'attitudine virtuosa, un'azione virtuosa, motivata da una forte attitudine di voler ricambiare, questo può maturare anche in questa vita. Quindi queste sono 8 azioni, abbiamo visto queste 8 azioni, che possono maturare in questa vita. Quindi in breve sono le azioni motivate o da una grande compassione per gli esseri, o da una grande, o da una grande attitudine egoista, okay? O sono azioni fatte all'incontro di sopporti pesanti, okay? Karmicamente, che sono i genitori o i propri maestri, eccetera, di essere di beneficio o di essere di danno a questi rispettivamente. Quindi al momento della morte cosa matura per prima? Questo è importante da capire. Quindi abbiamo 4 possibilità. Quindi ciò che può maturare per, ciò che matura per primo al momento della morte, okay, è l'azione, è il karma il più pesante. Quindi prendete l'arco della vostra vita, ma anche delle vite passate, è la cosa che ha preso il più peso, è ciò che matura per prima, è ciò quindi che determina la rinascita. Sì, siamo in un caso dove ci ritroviamo in una situazione dove virtù e non virtù sono di peso uguale. Okay? Allora, ciò che matura per primo è ciò che è stato compiuto al momento il più vicino della morte. Al momento il più vicino. Sì, anche questo, c'è una certa equanimità rispetto a questo. Allora, ciò che matura è la predominanza, la più grande familiarità. E sì, anche lì abbiamo una certa equanimità con l'abitudine, allora è ciò che è stato compiuto per primo, nel senso il più remoto. Questo è in modo ciò che matura al momento della morte. Okay? Quindi adesso velocemente, no, mi fermerei qui e finiamo, sicuramente dobbiamo finire la settimana prossima il karma, perché vorrei incominciare all'essere di motivazione intermedio, che è molto interessante. Cioè, 4 nobili verità, queste cose anche molto utile per noi. Quindi mi fermo qui, la prossima volta posso finire in 20 minuti, okay, 20 minuti la cosa si finisce. Mi piacerei eventualmente con quelli che vengono regolarmente, che sono venuti regolarmente dall'inizio, quindi dall'inizio abbiamo riguardo forse 4 persone, ok? Avere un po' alla fine di ogni scopi di fare un quiz di 20 minuti per vedere che cosa è stato preso. Così mi rendo conto anche un po'. Quindi una cosa tipo di 20 minuti, vi metto delle domande e rispondete in un modo molto breve, no? Con dei bullet points, come si dice bullet points, no? Con un punto e due parole, no? Vedo se c'è o se non c'è, così mi rendo anche conto. Quindi una cosa così di 20 minuti, quindi non la settimana prossima, ma per esempio, perché non abbiamo ancora finito, tra 15 giorni, quindi cominciate a ripassare le cose e ci vedremo, non so, ci possiamo vedere tipo o la domenica 20 minuti prima, mezz'ora prima delle 9, tipo le 8 e mezzo, okay? O può essere un altro giorno e vi do questa cosa, lo fate e così dopo io do un'occhiata, vi darò le risposte anche, ovviamente vi do anche le risposte, e così vedete, anche per voi è buono perché potete capire cosa avete trattenuto, dove c'è confusione, questa cosa, ok? Quindi dirlo anche a Davide, okay? Faremo sta cosa, ok? Avete un paio di domande? Una, non un paio, una. No, una basta. No, se non c'è, allora, come di solito, chiudiamo. Sì. Fammi la domanda. L'etica è necessariamente qualcosa di personale. Cosa intendi? Cosa intendi? La tua interpretazione? L'etica è l'abbandono. Al minimo, l'etica che cos'è? L'etica è l'abbandono delle 10 azioni non virtuose. Questo è l'etica. Ok? E anche qui non è da un punto di vista morale che non ci piazziamo, da un punto di vista morale non ci piazziamo, da un punto di vista culturale, okay? Qui qual è lo scopo dell'etica? Lo scopo dell'etica è produrre la rinascita di felicità e evitare l'esperienza di sofferenza, no? Perché la sofferenza sorge dalle azioni non virtuose. Il compiere azioni non virtuose, questo è l'opposto dell'etica. L'etica quindi è bloccare e non compiere azioni che sono fonte di sofferenza, e compiere invece l'opposto, azioni che sono fonte di felicità. Questo è lo scopo. Quindi ci sono queste variazioni. Dopo è il nostro problema se le vogliamo mettere in pratica o no. È il nostro problema, non c'è qualcuno che ci viene a giudicare, okay? C'è solo la legge di causa effetto, nient'altro. Quindi è come la legge di causa effetto, no? Questa legge del karma è una delle leggi universali che regola la maturazione delle esperienze, okay? C'è una legge di causa effetto esterna, ce n'è anche una interna. Mettete un seme di pomodori in terra e dopo un po' di tempo avrete dei pomodori, non avrete qualcos'altro. Non è che metti i semi di pomodori e te li trovi con delle melle, ok? No, quindi c'è anche, perché c'è una relazione tra la causa e l'effetto. Quindi anche a livello delle azioni c'è una certa congruenza, okay, tra la causa e l'effetto. Quindi si pianti un seme di un albero dolce, cioè di frutta dolce, non ti ritrovi con qualcosa amaro salato, ok? Quindi c'è questa congruenza. Quindi questo è l'etica è al minimo quindi l'abbandono delle tre azioni del corpo, quattro della parola e tre della mente. Incomincia qui l'etica. Senza etica è impossibile stabilire il fondamento per sperimentare felicità nel futuro. È impossibile. Questa è proprio la base. Quindi non ha altro scopo che di produrre condizioni di felicità e eliminare situazioni di sofferenza. Questa è l'etica. Sì, è questo. Come? No. Beh, è anche logico, no? Se tu vai in giro a danneggiare gli esseri senzienti, no? A colpirli, a ucciderli, non ti sembra anche logico che sperimenterai qualcosa di congruo a questo? Non hai bisogno di essere nella sfera del Tathagata per capire che l'uccidere non è qualcosa che fa bene. No, in maniera forzata non funziona. La maniera no, ma questo è qui stiamo andando nei concetti, nell'elaborazione concettuale, che sono visioni anche errate, ok? che qui invece non ci parliamo di questo, qui siamo nelle. Il Buddha, quando ha presentato questa cosa, è perché lui ha percepito, cioè nella sua saggezza, con la sua mente, ha visto che tale azione ha come risultato tale effetto. Quindi gli esseri non vogliono essere ammalati, quindi non devono uccidere, perché la cosa per essere ammalati è uccidere. Gli esseri non vogliono essere deprived, come si dice deprived? Privati di mezzi di sostentamento, no? Quindi non devono rubare, perché il rubare fa in modo che quando uno prende rinascita, dopo non possiede niente, è nella povertà. Okay? E dopo ha spiegato: se volete sperimentare la ricchezza, dovete praticare la generosità. Se volete avere una vita in buona salute, dovete proteggere la salute e la vita degli altri. Okay? Quindi aiutate le persone che sono ammalate, queste cose. Questo produce delle cause che sono congruo, gli effetti sono congruo con le azioni. Okay? Quindi ha spiegato che è varia in quel modo, no? Se volete, per esempio, essere presi in considerazione quando parlate, dovete smettere di parlare a vanvera. Okay? Se volete sentire sempre delle cose piacevoli ai vostri incontri, non dovete andare in giro e ferire le persone con la parola, perché questi sono gli effetti diretti di quelli. Tutto quello che sperimentiamo è l'effetto delle nostre azioni. Tutto. Assolutamente tutto. Quindi, questo è l'etica. L'etica significa avere un comportamento che elimina le cause della sofferenza e invece produrre un comportamento che produce le cause della felicità futura. Questo è l'etica. Nient'altro. Quindi non è una cosa elaborata concettualmente, perché è bello di far questo o non è bello di far questo, okay? O che qualcuno è compiaciuto da quel tipo di comportamento, allora dovete fare perché ne avrete la retribuzione di questa persona. È semplicemente legge di causa effetto, okay? Quindi è qualcosa di molto difficile da accettare, è molto difficile, quindi dobbiamo riflettere, dobbiamo cercare di guadagnare una convinzione profonda e intima di questa cosa. Dobbiamo contemplare questi test, dovete cercare di riflettere su queste cose in modo di generare una comprensione e una convinzione. Finché non c'è una convinzione di queste cose, direi anche quando c'è una convinzione, è comunque difficile affermare certe azioni. Tutto comincia col pensiero, quindi l'etica comincia prima col corpo, ok? Un po' più difficile la parola, molto difficile è la mente. Quindi all'inizio, ecco perché prima vengono, cioè, si incomincia con le cose anche che sono facili da abbandonare, come l'uccidere, è facile di abbandonare, di uccidere. Quindi si incomincia con queste cose e piano piano si va sempre verso il più sottile. Dobbiamo anche arrivare a eliminare anche la motivazione di compiere quell'azione. Certo, c'è un certo tipo di karma. Sì, abbiamo visto, no? Soprattutto ne abbiamo tre, che sono la brama, la malevolenza e le visioni errate. Okay. Non soltanto come pensiero, nel senso che ci deve essere, per esempio nel caso della brama, ci deve essere un oggetto che non ti appartiene, e deve essere coinvolto nell'elaborazione di cercare di come ottenere quella cosa. Ok, allora a quel modo l'azione diventa completa. Il solo mi piacerebbe di aver questo, è meglio non dimorare in quel tipo di pensiero, perché produce afflizione, produce più brama in quel modo, ok? Produce afflizione, l'attaccamento sorge e comunque produce una mente insoddisfatta. È già tanto, perché ci sono quelli che pensano male e agiscono anche male. Quindi bene, è così che bisogna fare, fino a essere in grado di Ma questo si fa, è qualcosa di più sottile, quindi è molto più difficile di prendere il controllo della, è molto difficile di prendere il controllo della mente. Ecco perché, per esempio, il Buddha, a livello dei voti di liberazione individuale, non ha presentato nessun voto rispetto alla mente. Sono i voti sul corpo, sulla parola, ma non sulla mente, perché è troppo difficile. Controllare la mente è molto difficile. Quindi si fa piano piano, controllando il corpo, come dicevo prima, no? Controllando prima le attività fisiche, dopo controllando anche le attività verbali. Piano piano si prende anche il controllo della mente, perché la mente si disimpegna della motivazione di queste azioni, visto che sono già sotto controllo di queste azioni. La mente non va più, piano piano, non va più a ricercare quel tipo di azione. Però è un processo graduale che prende molto tempo. E c'è bisogno di avere molta introspezione, cioè, nel senso che di solito, no, la nostra mente è sempre fuori a guardare quello che fanno gli altri, okay? Questo non è di nessun beneficio al mente che siate pagate dal governo, okay? Osservare quello che fanno gli altri non è di nessun beneficio, almeno che partiamo, cioè la DGS o qualcosa del genere, in Italia non so come si chiama, non c'è nessun beneficio. Anzi, la vostra mente degenera in quel modo, perché di solito quando si osservano gli altri siamo sempre impegnati nelle attività di critiche, quindi la mente degenera. Invece quello che dobbiamo fare è guardare quello che facciamo. Invece, infatti, c'è un praticante del passato che diceva, no, quando sei con gli altri, osserva la tua parola, e quando sei da solo osserva la tua mente. Osserva la tua mente. Quindi, perché alla fine, no, l'etica, tutto parte dalla mente. Quindi è importante guadagnare il controllo della mente, perché tutto parte dalla mente. E la fonte della felicità e della sofferenza risiede nella mente. Quindi, ci sono anche i maestri che dicono che finché tolleriamo le afflizioni nella nostra mente, non c'è etica. Quindi alla fine l'etica è l'eliminazione delle afflizioni all'interno della mente, il non tollerare le afflizioni nella propria mente. Questa è l'etica. Però noi dobbiamo cominciare all'inizio. Si disimpegna. Funziona. Nel senso che se tu decidi, motivato dalla ragione, percepisci, se tu si fai capire alla tua mente che qualcosa è fonte di sofferenza, hai già fatto un bel passo. Queste cose funzionano finché la mente percepisce qualcosa come essendo fonte di felicità, ma non fonte di sofferenza, la mente ci torna. Quindi ti puoi separare fisicamente da qualcosa, ma la mente ci torna. Beh, infatti, il buddismo, è questo, no? Il suo input, è che libera tramite la comprensione. Non perché questo non è bello, non lo faccio. No, non può funzionare. Devi capire perché non lo devi fare. Il perché non lo devi fare è perché è fonte di sofferenza. Quindi questo è l'antidoto finale. No, non finale, però diciamo è il modo di procedere. E questo è quindi rispetto al karma bisogna analizzare il risultato di queste variazioni, e vedere che non vogliamo sperimentare la minima sofferenza, neanche all'interno dei nostri sogni. Neanche non siamo neanche contenti quando i sogni vanno male. Quindi, se non vogliamo sperimentare sofferenza, dobbiamo smettere di creare le cause della sofferenza, perché la sofferenza non sorge a caso, i fenomeni non sorgono a caso, hanno delle cause, delle condizioni. Niente sorge dal nulla, niente sorge dal tutto, okay? Non c'è un'autorità suprema che ci fa sperimentare difficoltà o sofferenza, questo noi non accettiamo, okay? Dico noi, nel buddismo non viene accettato. È la mente che crea tutto. Quindi, se speriamo delle difficoltà, è perché abbiamo creato le cause. Non le vogliamo sperimentare, dobbiamo smettere di creare queste cause specifiche. Un risultato specifico a una cosa specifica. Così. E ci fermiamo qui. quelle facciamo le dediche, come di solito andiamo a dedicare tutta questa energia virtuosa affinché tutti gli esseri senzienti ottengano velocemente lo stato di Buddha, ok? Anche noi e tutti gli esseri senzienti ottengono lo stato di Buddha, che possiamo velocemente sviluppare delle qualità per essere di beneficio agli altri, affinché tutti i veri maestri, i maestri autentici che insegnano i veri sentieri verso le vere cessazioni abbiano una lunga vita, ok? Che i loro desideri siano esauriti. E andiamo anche a dedicare in modo che il Dharma, che è la fonte di felicità, dimora a lungo senza degenerare in questo universo, in questa terra. Deye sana gavacı Camcı zemcı rimbacı Amakya bana gelici Yaban yaban yabayam Gane gondu pervacı Kare rave karve çingende Demdem devam alıcı ven Çenre ziva tenci gelsoyi Şabe zite padu denci Nazo jinye sambe gyawadi dam dam drava guna gambed Nyamba jetsu loza drabayi Tembe nyambo rindu sanje Grazie. Ci vediamo domenica prossima.